e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Sì, per raccontarsi, per raccontare qua nello studio di Resto Radio Convento, questa sera, questa... ormai è domenica 27 febbraio, perché abbiamo passato la mezzanotte da 27 minuti, sono qua in compagnia di... Emanuela. E Roberto. Ah, bravi, cioè non avevamo detto nulla. Bene, bene, siete presenti, se vi sento sul pezzo. Che non capisco se siete vestiti da carnevale. Sì. Siete purtroppo sì. Ah, no, quindi non vi siete sposati, perché... È una speranza, un'aspettativa. Ah, ho capito. E nel carnevale ci si veste pensando sempre a cosa si vorrebbe essere nella vita, no? Ma Emanuele e... No, Emanuela e Roberto. Ah, non Roberta e Emanuele, Emanuela e Roberto. E Roberto. Innanzitutto, sì. Ciao, e da dove arrivate? Da Bergamo. Botto, da Pota Bergamo. Pota Osti, sì, da Bergamo. Anch'io da Bergamo, Beh, quindi abbiamo una Berga femmina e un bergamasco? Esattamente. Maschio? E un bergamona. Dai! Ma non siete veneti? No, siamo di Bergamo, no, davvero. Perché il mio amico veneto mi ha detto che gli nasceva una bimba e mi chiede, ma come la posso chiamare per non essere volgare? Chiamalo Sifica. Altrimenti Simona era un po' troppo volgare, secondo lui. Vabbè, niente. Tanto siamo in fascia, non siamo in fascia protetta oggi. Sono Mr. Dave. E quindi spiegatemi un attimino cosa avete deciso di fare. Innanzitutto, perché siete qua? Siamo qui con una coppia di amici, Marina ed Enrico. Ci hanno invitato a questa occasione per festeggiare il carnevale. E abbiamo deciso di vestirci in un modo un po' anticonvenzionale. E quindi io ho rispolverato il mio vestito da sposa. Secondo me ci siete riusciti. Sì, eh? Sì, indubbiamente. E anche per lui è replay? E anche per lui è replay, sì. Ma non siamo marito e moglie. Non siamo marito e moglie, abbiamo già dato a sua volta. Ho capito. Quindi conviviamo, sì. Abbiamo unito quindi due famiglie. Vivete nel peccato, perché se non siete... Esattamente, sì. Ci siamo allargati, no? Uniti, allargati. Ho capito. E poi abbiamo un po' che gli faccio la corte, ma non ci sente più ormai, è andata, eh? Io ci provo. Quindi la zuppetta non l'ha ancora fatta. No. Non molla. Quindi il cappuccino la mattina è così scompagnato, insomma. Però questa mattina mi ha fatto una sorpresa, ha tirato fuori il suo vecchio vestito da sposa, quindi mi ha stupito, ha detto per carnevale voglio vestirmi così, e quindi anch'io adesso. Ma lo sai il detto, vero? No. Carnevale ogni scherzo vale. Sì, e rimane solo uno scherzo e basta. Pensavo ti fosse sceso il Madagascar. No, era una cosa studiata invece. Cos'è? Un cuore? È un cuore, sì. Ah, ok. Il cuore infranto, il cuore di picche? No, è un cuore pieno. Un cuore pieno? Sì, pieno d'amore. Mi avete spiazzato, ragazzi. Sì. Quindi da Bergamo, qua al ristorante convento, che conoscevate o è la prima volta? La prima volta. Ah, la prima volta? Sì. Portati appunto da una coppia di amici. Da Marina ed Enrico. Che quindi Marina ed Enrico, che salutiamo. Ciao Marina, ciao Enrico. Ciao. E loro invece non era la prima volta qui. Non era la prima volta, erano già stati qui per festeggiare altre occasioni. E loro sono sposati da tanti anni e sono il nostro esempio. Ah, quindi il mentore in pratica. Sì. Bellissimo. Abbiamo Sandrino. Ciao Sandrino. Che ci saluta. E avete in programma qualche festeggiamento? Magari ancora dove sfoggiare questo, però complimenti, perché voglio dire, l'ultima volta che ti sei sposata realmente quando è stato? 23 anni fa. Complimenti. Grazie. Sì, c'è stata tutta, eh. Ha detto che era magra quando si è sposata, ma no, davvero, perché se dovessi prendere il mio vestito di nozze non mi va più bene. Non fai fatica, l' ho letto, no, qua. No, non faccio fatica a crederlo, ha detto Emanuela. E tu Roberto invece? Anch'io mi sono sposato più o meno. Sì, ma dico, questo è il vestito o questo è... No, basta, è andato, usurato nel tempo, consumato e via. La camicia sì. La camicia sì, fra altre cose questa. La cravatta no, perché te l'hanno tagliata. È la camicia che mi sta larga. Vuol dire che insomma ho perso qualche chilo, no? Ah, tempo. Bravo, sì, bravo, sì, bravo. Sicuramente. Invece io al contrario, invece. Col Covid, con la pandemia, ho imparato a cucinare, per cui si vede. Ma faccio da mangiare bene, eh? Ci credo. Si vede, si vede. Bene. Avete. Volete salutare qualcuno? Ma un sì, saluto certo. A tutti quelli che ci conoscono, soprattutto a mio figlio Davide, e un saluto a Marina Enrico. E da parte mia ai miei tre ragazzi, Alice, Giulia e Lorenzo. Benissimo. Non abbiamo concluso qua, eh? Cioè, questo non era per salutare, eccetera. No, adesso voglio sapere la filosofia che c'è dietro. La filosofia che c'è dietro a questo travestimento di carnevale? Anche. Allora, la voglia di scherzare, di vivere un momento di serenità, di tranquillità e soprattutto credere ancora nell'amore e nei sentimenti. Di che segno sei, Manuela? Io sono un acquario. Quindi tanti auguri. Grazie. Li hai appena fatti? Appena compiuti, sì, 51. Complimenti. Grazie. E quando li hai compiuti? Il 17 febbraio. Io il 13, quindi dai. Vinco io. Sì. E invece Roberto? Cosa vuoi sapere? È un po' più grande. Zitto, aia, ho sentito uno stinco che è partito. Qual è la domanda per me? Idem, uguale. Non mi ricordo la domanda. È un classico. No, ho sentito la sua risposta, ma mi sono perso la domanda. Però il mio nome se lo ricorda. Sì, sì, meno male, ma anche quello. Capisco che è un po' più grande, quindi ci sono. Dai, fammi la domanda. Di che segno sei? Ah, io, Sagittario. Sagittario. Primo dicembre 1900. Però? 63. Beh, sono simpatici questi bergamaschi, questi bergamaschi. E diciamo che c'è ancora tanta voglia di vivere e devo dire grazie a Manuela perché mi ha regalato, mi ha fatto un bel dono, la sua presenza, il suo sorriso, ma il suo di vivere. Da quanto tempo? Solo 2 anni. 2 anni? E beh, un po' di più. Dai, 2 anni e mezzo, ecco, va bene. È tanta roba, è mezzo, è 6 mesi, alla tanta roba. Età, sì, tanta roba. Età, sì, sì, tantissima. Sì. E dopo poco tempo abbiamo deciso di andare a convivere insieme ai ragazzi. Quindi in pratica la famiglia adesso è composta da 2 più? Più 4. 4? Quindi 2 3 più 1. Ah, 3 e 1. Sì, sì, sì. È una famiglia impegnativa. Un azzardo, ha fatto una bella scommessa. E bello, che, insomma, bello. È un bel impegno, sì, sì, per sì. Lei però vi vedo belli, radiosi. Grazie. Continuate così, ci rivediamo qua l'anno prossimo. Sicuramente. O anche prima. Vorremmo conoscere anche i vostri ragazzi. Va bene, sarà fatto. Ciao Alberto. Roberto. Ciao Emanuela. Ciao. Grazie. Ciao, ancora. E che dire? Che il futuro è davanti a voi. Bellissimo. Quindi non abbiate paura.